Siamo qui con Andrea Gargiulo del Link 2.0. Qui vogliamo chiedere come si sono organizzati per la rassegna estiva e che cosa troveremo nei loro spazi. Allora, buonasera. Intanto, noi per quest'estate ci siamo organizzati su due spazi differenti. Per l'esterno faremo una rassegna che è Link Bologna Estate 2021, che si terrà nel giardino del Link di Via Fantoni. La rassegna si occuperà principalmente comunque di intrattenimento musicale, live, DJ set, in attesa del momento in cui si potrà ripartire con le danze, quindi ritornare a quella che è la genesi del Link. Continueremo a proporre comunque DJ set sperimentali di musica comunque collegata all'elettronica, quindi sempre in tema con quello che sono le nostre origini, mentre nel Parco dello Russo porteremo avanti una manifestazione dove ci saranno contenuti culturali, di attività per bambini, visto che comunque un parco ha grande attrazione comunque di giovani, di bambini e di famiglie. Proporremo anche lì comunque dei contenuti musicali e culturali. Lo stesso lo faremo anche nel Parco del Link, proponendo dei corsi attraverso, diciamo, la nuova nostra branchia della parte corsistica del Link, che è Link Academy. Quindi riprenderemo un po' i corsi che avevamo iniziato l'anno scorso di mix in vinil o corso di produzione con Ableton, e in più cercheremo di portare nuovi prodotti. Ovviamente per il momento faremo tutto all'aperto, perché con l'associazione siamo chiusi e quindi sfrutteremo tutto il giardino. Quello che si potrà fare all'aperto lo faremo, quello che si potrà poi fare al chiuso aspetteremo il 1° luglio per poter ricominciare con le nostre attività. Sulla programmazione al momento alcuni nomi specifici non ce li abbiamo, o comunque ce li abbiamo ma aspetteremo poi per annunciarli, per dare un po' quel brio e quell'attesa su quali saranno gli artisti che saranno presenti al Link quest'estate. Partiremo il 5 giugno con l'iniziativa PVC, che sostanzialmente è figlia di Microsolchi, l'attività che avevamo incominciato l'anno scorso di mercatino di vinili, quindi per digger lovers e per dealer lovers, e quindi vediamo l'ora di ricominciare. Ovviamente saranno tutte attività diurne finché ci sarà comunque la restrizione con il coprifuoco, dopodiché una volta che il coprifuoco verrà meno, speriamo che verranno meno anche tutte le restrizioni delle distanze e tutto il resto. E considerando i protocolli Covid, come si potrà partecipare a questi eventi? Sicuramente per partecipare agli eventi bisognerà registrarsi, e utilizzeremo come portale per la registrazione Ugo, che è un'app di ticketing online dove si può registrare anche gratuitamente, visto che parecchi eventi che comunque proporremo all'inizio saranno gratuiti. Per i protocolli bisogna arrivare al Link, mostrare praticamente l'app, il ticket, quello che è, si viene misurata la temperatura, gel, mascherina e via andare.